all'aria pulita, ma molta gente che viene da quella parte dice grazie a voi che avete quest'aria così pulita, così bella, che si riesce a respirare. Troppe macchine, troppo traffico, vai Natalie. Forse ci siamo sovramodulati perché abbiamo ripreso assieme io e tu. Capitolo, stavo dicendo che mi è venuto un attacco stamattina, sono morto, mi sono visto già. Sì, avevi visto, e cosa ti ha fatto male? E cosa ne so, mi è venuto all'improvviso questo attacco tipo colica, ma un dolore forte alla pancia, qua crepando stavo. E anche a me una volta è successo, mi ripercuoteva anche i testicoli, oltre che mal di pancia forte, anche i testicoli mi faceva male. Ed era proprio un attacco di una colica così, come hai detto tu. Avevo mangiato troppa cariaggia, deve essere. Forse dipende da qualcosa che ho mangiato e mi ha fatto male. Stamattina proprio. Infatti non sono uscito neanche. E a me è passato da butto in fuoco, ma in quel momento, guarda, perso mi sono visto. Già lo so. Sono brutto di quelli che ti vengono dei dolori a cruce, alla pancia. Avanti Gianfra, e te quelli che non te ne sono mai venuti. Di norma il dolore lo reggo bene, talmente bene che quando sono andato al medico ho detto mi sembra avere un dolorino su un fianco. Ha detto, ma non c'è problema, la visito, ma non è che mi dia molto fastidio, se c'è da fare, no, non è importante, no, venga, mi ha toccato il fianco, ha detto, aspetti che sto chiamando l'ambulanza, no, vada subito in ospedale, le sto facendo il foglio, ma perché? Per l'intestino, ho capito. Però onestamente io non sentivo, ho sentito solo questo fastidietto piccolo. Quando è colica ma la sorta allo stomaco, quelle già si sentono, diventi bianco come un cadavere, c'è bisogno del bagno subito, per carità, guarda, io ogni tanto ce n'è una comunque. Una volta quando ero un ragazzo, ero una comica, mi è venuta questa colica, abbiamo fatto tutto Ponte Rosello correndo, la gente mi salutava, ciao, mi guardava, che guardava per fermarsi, io passavo dritto. E gli amici miei a fianco facevano la sirena, no? Sono arrivato a casa, mi sono abbassato i pantaloni prima di entrare dentro il gas. E non si sa mai già, che non fai a tempo. Brutto è, quando sei fuori specialmente, se che sei in casa ti arrangi, ma quando sei fuori, ui. Tu si generano delle potenze lì paurose, e diventi praticamente un compressore, perché senti proprio il dolore che non ce la fai più. E quello è dovuto magari al fatto che ha mangiato qualcosa di strano, o qualcosa che ci aveva dei batteri un po' di quei disgraziati, o semplicemente che c'è stato un forte sbalzo termico. Ma hanno calcolato che sale a pressioni veramente micidiali, è per quello che sentiamo il dolore, perché poi ti prende anche gli altri organi. Il problema è quando non riesci ad andarci in bagno. Mi sono fatto un criterio, io sono andato. Poi che non perderci gusto, via. Ho fatto proprio così, se no un cavolo mi era abbassato. Mi sono visto perso tutto. Già, quando ti operano, no, soprattutto quando sono operazioni addominali, ti danno queste sostanze da bere e non se ne vanno, cioè dovevi bere davanti a loro per essere certo, per pulire l'intestino. Pensi che non faccia niente, no? Dopo 10 minuti inizia a sentire quei rumori strani, tipo pentola che bolle, blo, sempre aumentando. Poi il risultato lo sai, no? Succede, ce n'era uno all'ospedale con me, si faceva addosso, un uomo giovane, non era un 45 anni, l'avevano operato al ginocchio peraltro tutte queste sostanze, questi flebo che li facevano, cosa si faceva? Diceva, ma hai fatto una cacca addosso, adesso voglio comprendere il naso, lui mi ha messo tutti i denti, non l'ha compreso. Ma tutti i comuni dicevano, i filmini. Natalia, lo sai chi era quello che ti ho detto che conoscevi, quello che era cacciatore? Sì, già ci compreso, Bertolino. L'ho trovato. E a me che mi ha ricordato 4 pugnalati, mi ha ricordato. Quello però, così, gli infermieri erano scocciati, perché facevano cambiato e si stava a cagare. Sì, poveraccio, non è colpa sua. Tutti cose che lavorano in basso, poveraccio. A me quando mi hanno operato la colicite, mi hanno tirato, c'ho 4 buchi. Oltre alle pugnalate anche il drenaggio mi avevano messo. E a me lo stesso, Natale, tutto un buco. E a me non è solo un buco che mi hanno fatto, mi hanno fatto un trinchisi che batti dalla coscia e arriva fino al fianco. E io infatti al mare non ci vado più, vado sempre quando non c'è nessuno, perché se mi vedono tra torace e massaddome, pensano che sia qualcuno che ha preso fucilate a pallettoni di qua, di là, di su, di giù, una macelleria. E allora cosa ti devo dire io, che quando vado al mare mi devo mettere i calzari subacquei senza avere muta, senza niente, per farli per i puli, però li devo mettere perché per la finita che c'ho nel piede, capito? Infatti, ma le mie sono tutte cicatrici proprio di taglio, anche ripetute parecchie volte, ce l'ho sul fianco, davanti, lungo il torace, sotto, insomma, proprio uno che ha fatto la guerra. Ma sei arrivato, aspettatino. Me l'hanno detto anche loro, infatti, perché mi stavo lamentando. Hanno detto, ma aumentiamo l'anestesia, perché molte le ho fatte senza essere addormentato del tutto, no? Facciamo un po' l'anestesia. No, ma non è quello che mi fa male, e siccome sto tenendo il braccio in alto, mi si sta immobilizzando perché mi stanno venendo i grampi. Sono rimasto così. Hanno detto, ma scusi, la stiamo tagliando come un maialino, e lei si preoccupa del braccio. Ma il braccio mi fa male, tutto l'altro no. E a me me l'hanno fatto al sveglio, lei mi ha lo stesso, mi hanno fatto la spinale, non ho sentito nulla, né la spinale né quando mi hanno operato, però non ero completamente addormentato, solo quando mi hanno tolto la colicite mi avevano addormentato del tutto, manca cotto me ne so come mi hanno addormentato. A me me l'hanno chiesto se volevo la totale quando mi hanno operato la gamba, oppure se volevo la parziale. No, le ho detto la totale, io non volevo sentire nulla. Sì, è fatto bene. Io mi sono svegliato che ero già fuori dalla sala operatrice. Sì, anche io. Ero nella camera dove ti mettono per controllarti prima di portarti su, dai. Camera preoperatoria, quindi mi sono trovato lì. Poi c'avevo questa anestesista che mi accarezzava, mi diceva dai, sei preoccupato, non ho paura. E dai, adesso mi facciamo il flebo, ho fatto il risalgoso, ma che stavo parlando mi sono drumito, mi ha fatto l'anestesia. A me era dietro il traditore, e quindi non ho visto se ha messo la siringa da qualche parte, che cavolo ne so. L'avrà fatta passare nel laghetto che avevo l'anestesia e mi sono addormentato, manca accorto, me ne so. Comunque molti non se ne accorgono quando ti fanno la previsita, no? Non a tutti dicono quello che fanno, perché soprattutto nelle operazioni addominali quasi sempre usano intubare il paziente, perché l'anestesia che usano ti blocca il sistema respiratorio praticamente, quindi l'aria deve essere intubata verso i polmoni. E siccome non è una cosa tanto carina, e quindi la maggior parte delle persone entra dentro, le fanno anzi prima di scendere ti fanno la preanestesia con l'iniezione, la fanno a tutti. Quando sei sotto ti dicono, ti iniettano altre cose che ti paralizzano praticamente tutta la muscolatura, e da lì in poi ti intubano, perché ovviamente paralizza anche i polmoni ed è una cosa micidiale. Loro lavorano bene, meno male tu non senti niente, perché non è piacevole, per quello che quella, l'anestesia totale è sempre un rischio, soprattutto per molte operazioni, anzi la maggior parte del pericolo sta proprio su questi tipi di anestesia così potenti. Poi l'altra si chiama salata e sveglio, quando sei lì insieme a tanta gente, qualcuno è dolorante, qualcuno sente un tubo, ti senti rintronato e ti portano su. Però non tutti lo sanno che le fanno col trattamento. Io non mi sono accorto se ci hanno messo un'ora, se ci hanno messo 4 ore, perché non c'avevo l'orologio, mi hanno portato giù per primo e mi hanno dato giù, era già tardi sicuramente, verso le 2, un bel po' di ore hanno messo a fare l'operazione a me. E poi ci sembra poco, in realtà sono un'ora, 2 ore. E fai 4, a me ci avevo messo su 4 ore a fare quell'operazione. E devi contare che devono tagliare la prima parte e poi devono tagliare il muscolo in due e arrivare fino all'osso, poi segare la parte della testa del femore, mettere, avvitare quella specie di protesi che sembra una vita senza fine, la avvitano lì e poi dall'altra parte la avvitano alla protesi rotonda ed è fatto il gioco. Sì, è così. Ma quelle addominali, tutte quelle addominali sono definite grandi operazioni, no? Perché hanno questa classificazione, operazione base, operazione media, operazione grande, e quindi dipende dalla difficoltà che hanno. Fortunatamente adesso moltissime le fanno con le sonde, quindi la laparoscopia, quelle cose lì, e guarisce anche prima, però certi buchi, chissà, poi se sembra così, no? Tu pensi che siamo delicati, invece anche guardando quella trasmissione di cosa, non so se la vedi, adesso credo che la stiamo ridando real time, di quello che fa dimagrire i grassi, guarda quanto è delicato con l'endoscopio di lì, a destra, a sinistra, in alto, in basso, no, aspetta che mi sta scappando. Quindi poi risenti più delle ferite che del punto in cui hanno fatto l'operazione vera e propria. Cose brutte, ma meno male, a volte risolvo anche la vita comunque. Sì, tante volte, sì, lo seguo anche io, tante volte non ce la fanno e muoiono, ma quelli sono super obesi, pesano 400 kg, 350 kg, sono quegli americani che vanno a mangiare, che si affiancano con la macchina a quelle paninotteche volanti, se ti fanno il panino non te ne scendi manco dalla macchina, hai dei soldi, ti danno il panino che sembra un panino enorme, cazzo, a 3 strati, io non credo che ingrassi. Natalia, io penso che se noi ci mettiamo a mangiare porcetto tutti i giorni, di quello fatto alla sarda, no? Nel camino a fuoco lento, a mangiare tutti i giorni sicuramente ci fa male, però non ci riduce in quello stato, perché se li vedi non vanno a cercare anche gli altri organi praticamente, perché non li trovano. Sì, infatti, food killer, quello lì è quello americano. Io penso che mangiando il porcetto ci può fare anche male, però non diventiamo come quelli lì. Certo, ti ribucare i bimboni nel mezzo, salse, questo, quell'altro. Sono esagerati, gli americani sono esagerati in tutto. Guarda anche nella razza del mio cane. Il mio cane è la razza base. Gli americani hanno fatto il mio cane l'hanno incrociato col ciucciù. L'hanno fatto tutto a pieghe, però queste pieghe vi creano dermatiti, tu li vedi senza pelo, tutto quanto, perché li creano queste dermatiti, perché si bagna, si sudano lì e si bagna tutta quanta le pieghe, e li crea dermatiti. Dice che bisogna passare una crema particolare che costa un sacco di soldi, tutti i giorni, se no li puzzano pure. Buonasera. Ciao. Gianni, guarda che arriva tu il display, domani ti consegno il telefono. Va bene, ok, andare. Guarda che io non c'ho il tuo numero, Luca, perché me l'ha dato Popolo che non ce l'aveva in questo cacchio di telefono, e l'ho scritto in un foglio. Deve essere la mia compagna, l'ha appena visto un pezzo di carta, direi tutto, e non c'ho più il tuo numero, quindi quando è pronto mi chiami e io vengo. Mi dici più o meno a che ora posso passare, se no passo direttamente. Vai, hai mangiato un bludino di mammo. Aspetta, adesso telefono a quella lì e glielo dico cosa mi hai detto. Così impari. Chiama tu, poi vedi che chiama. Cosa vuoi che ti telefono stanotte alle 2? Faccio uscire le cose, come si chiama? Le stelline dalla batteria, chiama. le scintille, chiama tu, prova. Sotto, la batteria è arrivata. Che batteria? Il telefono. È completo di batteria già. Ah, vabbè, pensavo che fosse una cosa a parte. Io mi sono ordinato, lo sai che cosa? Il microfono Shure, per cantare, ma cazzo, c'ha una timbrica lui, che è una cosa tutta diversa, è molto più pesante degli altri microfoni normali. C'ha una timbrica allucinante. Eh beh, certo. Eia, vabbè, dai, non so che ci sia, avanti. C'è Gianfranco, io, Gianni e tu. Riprendi Gianfranco. Sì, ciao Luca, buonasera. Comunque già io non pensavo onestamente che certe persone potessero diventare così, cioè perché noi abbiamo visto tante persone che erano molto messe male e partivano subito perché o perché c'era il diabete o perché per un'altra cosa. Quelli lì invece sono una cosa che io pensavo non si potesse arrivare senza morire a quei livelli lì. Io ho visto che chiamavano i vigili del fuoco a sfondare quelle case che c'hanno in legno, no? Per farlo uscire, è un'ambulanza speciale. Quelli lì si mangiavano, come si dice, anche la legittima. E c'hanno proprio masse di grasso che li pendolano da tutte le parti. La parte di sotto è tutt'una, c'è una banda enorme che riesce a decidere, sembrano maiali ben grasso, cazzo, ma cioè, come si fa? Uno non si rende conto, ma perché qualcuno l'hanno intervistato, per dire, una donna l'ha intervistata e non ha avuto problemi perché l'avevano violentata e lì si rifugiava nel cibo, mangiava, ma uno poi si rende conto che sta ingrassando a sproposito, cazzo, ci dà una regolata, ma chi vi... L'altro giorno ne hanno operato una e non ce l'ha fatta, è morto. Una persona che corrisponde a quattro persone che non può entrare anche dentro un ascensore, ma te le immagini? Perché sono da sempre mangiano così queste schifezze, Gianfranco. Allora, loro sono dentro una stanza e per sollevarli ci vuole la gru. Figurati tu come ti so. 300 kg corrisponderebbero a 6 natalini, giusto? Sì, il minimo. Sì, massimo adesso che sono dimagrito. Prima avevo la 50 di pantaloni, adesso ho la 44. Facci il conto. Io sarò grosso, ma riuscirò a così mi fa schifo, guardarmi allo specchio così, poi... Non potrei neanche andare in bagno, già, ma è meglio andarsene che fare quella vita, avere bisogno di qualcuno che ti pulisca. sono cose veramente terribili. Lo so, ma sono forse anche disfunzioni a volte, non è disfunzioni ormonali, perché non è possibile. E ci dice formano delle piaghe, delle cose. Io ne ho visto uno che era tutto pieno di piaghe, che la sorella lo curava, aveva rinunciato alla sua vita per stare appresso al fratello, capito? È così purtroppo. Ma il fatto è che questa gente poi ti meraviglia cioè a noi già ci dicono quando sei sovrappreso attento al cuore, attento a quello, attento a quell'altro. E questi che sono così, chissà che cose hanno proprio a livello cardiaco, polmonare, e più ne ha più ne metto. Quello che ti meraviglia è che perdi anche il sentore dell'età che hanno, venendo di così, tu non sai dire quanti anni hanno. Poi quando controlli l'età che hanno, rimane a bocca aperta 27 anni, 26 anni, e dici caspita, boh. Sì, perché li deforma fisicamente. Avanti Cucca, tu la dieta facendo la stai. Cucca, Luca. Oh già. Ma ci sarà uno di quelli dentro le nostre macchine europee. Io penso, hai visto come c'entrano? O meglio, come c'entrano, come li fanno entrare? Sembra un tonno che entra dentro la scatoletta. Se si va al mare, vai dalla balena spiaggiata. E poi la macchina prende tutta una parte. Poveracci, si rendono conto che sono così, perché ogni tanto piango, dice io non voglio pensare su nessuno, ho sacrificato mia sorella sino adesso basta, mi devo mettere l'impegno, però quando poi si decidono è troppo tardi, capito? Quel dottore glielo dice sempre, e lo dice chiaro e tondo, se continui così non ce la fai a campare più di un mese. E poi di nascosto male ci comprano la roba da mangiare, di nascosto poi il dottore se ne accorge dal peso. Beh, sono come i bambini, ma poi spesso sono i familiari che pensano per farlo stare bene, danno la mano. È una forma di droga praticamente, diventa mangiare. Ma poi l'impressione è quando ne tolgono qualcosa, no? Che si fanno le reali dimensioni di quello che ci hanno addosso e lo pesano, 30 kg di roba tolta solo in un colpo, un po' allucinante. Purtroppo è così, c'hanno una massa grassa che è come una zavorra quando camminano, ce l'hanno tutte le parti, poi gli organi si coprono di grasso, lavorano male, insomma un po' tutto, dai. Già che chiamano obesa che pesa 100 kg, figurati che tu invece 3Z o 4Z. Natalito, la facciamo una flebo di grasso? A me ci vorrebbe sì. Se sono dimagrito sembro l'ombra di me stesso. Tipo fantasma sei diventato. Sì, non vi affaurano già. Una serie a terra di geografia non se ne fanno, usano la torcia per guardare da una parte all'altra. Sì, infatti. Basta prendere un po' di vitamine, di coso, c'è anche uno yogurt che io prendo quando mi sento giù, ma non di morale, ma giù proprio fisicamente. A volte mi succede questa stanchezza e cose, prendo questi yogurt che mi fanno bene. E sono integratori, dai, tipo yogurt, vanno, si bevono, ma sono anche buoni, mi chiamano sapore di fragola, di cose, e fanno bene. C'hanno la vitamina B12 che dopo i 50 anni non la reintegri più, e quindi questa stanchezza che si forma è dovuta a quello, l'ho letto su internet. Sì, ma deve essere sempre confermata dalle analisi comunque. Con l'analisi del sangue te ne accorgi subito se c'è carenza, se ne hai bisogno o meno. Sì, infatti. A me già ne ho fatto poco analisi del sangue. Se avessi avuto carenza me l'avrebbero detto. Io le devo fare. E non sono andato il giorno che c'è la festa, sono andato lì alla LAS. Dalle 7 di mattina, aspetta, è toccata, che fortuna, il primo, non c'è nessuno, ma che strano, alle 8 non c'era nessuno, alle 8 e un quarto non c'era nessuno, poi ci ho pensato ed era festa. Ah già, lo sai cosa mi hanno fatto lì alla Fedolce? Lì non mi hanno detto di non andare, che le fanno male. No, ti basi in bagarre. Ma tu c'hai l'esenzione, cioè, sei diabetico, perché devi pagare? Ascolta, 5 solo senza pagare, tutti gli altri a pagamento. I primi 5 che arrivano le fanno con l'esenzione. Così, dimmi tu se è una cosa possibile, eppure lo fanno e gli permettono di farlo. Allora, la LAS non te le fanno pagare, se è l'esenzione non paghi nulla. A meno che adesso siano cambiate le cose, sì, dall'ultima volta io non ho pagato la tariffa. Dov'è la LAS? È quello che c'è via Umberto, dove più su del Moderno. Io ho capito, ma la prossima volta andremo lì a vedere. Io andavo lì sempre al latte dolce, non mi va bene mai bagato, tranquillo, perché c'avevo l'esenzione. Si sono sciariati. No, con l'esenzione loro se lo devono fare con l'esenzione, non devono far pagare nulla. È una truffa quella. Non so, mi meraviglia come gli permettono di farlo. Perché i primi 5 che arrivano hanno diritto all'esenzione, tutti gli altri a pagamento. Però ti stavo dicendo, il mio dottore mi ha detto di andare in tutti i laboratori tranne quello del latte dolce che ha tutti i valori sfasati, perché è stato appurato che dei pazienti avevano i valori strani, l'hanno fatto rifare le analisi in due posti diversi e risultavano tutte diverse da quelle che l'hanno fatto latte dolce. Sì, già vado in quello di via Umberto, io non ci vado più. Beh, questa cosa l'ho sentita anch'io, ne ho parlato anche col mio medico, mi ha detto che è una cosa un po' strana, perché in realtà loro non è che facciamo proprio le analisi, loro hanno i kit già pronti, poi ci sono le macchine che danno i resoconti, quindi a meno che non ci abbiano qualche problema loro sui cosi, è una cosa un po' strana, è molto difficile che al giorno d'oggi succedano queste cose. Poi per quello che riguarda il ticket, quella è sicuramente un'anomalia, mi sembra strano. E comunque vai di là in via Umberto e non dovresti avere problemi natali. Una volta le facevano anche al policlinico di via d'Italia, ma non le fanno più, lì le facevano abbastanza bene. Non ci sono mai andato. Io ce l'ho sotto casa, il laboratorio già fra, però è a pagamento, è privato e ti fanno pagare. Quello c'ha tutto, c'ha praticamente tutta la forestale, c'ha la rete urbana, c'ha tutti gli appalti possibili e immaginabili, c'ha Banoa, insomma c'ha tutti gli appalti grossi. E però lo fa pagare, è un medico del lavoro, fa pagare. No, più che altro quelli sono convenzionati probabilmente, lavora sulle convenzioni. Prima non mi faceva pagare quello sotto casa tua già, forse adesso anche lui ha cambiato idea e ti fanno pagare. Io non so che fa il medico del lavoro quello. E oltretutto è anche dentista, c'ha il laboratorio al primo piano di dentista. E già lo so. E vabbè, andremo a quello di via Umberto, vuol dire. Tanto a novembre devo andare a fare la visita diabetologica, vuole l'analisi del sangue, sempre. La pipì vuole tutto. Sì, comunque c'è anche il Palazzo Rosa, è anche online, ti fanno, puoi fare la prenotazione lì anche. Al Palazzo Rosa? Io mi ho cognato per fare l'analista chimico lì al Palazzo Rosa, ma non mi va di chiedere favori questo genere, se no vado, mi fa entrare, me lo fa fare dal dottore, del prelievo, no vabbè, quelle sono anche cose scorrette che non si dovrebbero fare. Ma a prescindere, siccome io la faccio per mia sorella a volte la prenotazione, l'ho già fatta, ti danno quell'orario, quindi vai lì, ti fanno il prelievo e ciccia, sei prenotato, capito, sei già. E tra l'altro tieni presente che anche in via Umberto certe analisi non te le fanno, perché proprio non sono interessati a farle perché costano troppo. E quindi le devi fare per forza in ambiente ospedaliero, perché ci hanno delle apparecchiature che sono costosissime, soprattutto quando sono analisi che riguardano i reumatismi, allergie e cose del genere. Comunque sappiatelo che quando uno è diabetico, la precedenza, quando deve fare le analisi, tutte queste cose. Io non l'ho mai, io ho fatto sempre la fila perché non mi va di fare storie e cose. Però quando uno è diabetico ha la precedenza su tutti, anche perché un diabetico deve fare la colazione e fare l'insulina, gli altri non hanno questi problemi. Lo so quello, neanche io ne ho mai fatto problemi di quel genere. Perché io avrei la precedenza su tutti. Non mi va, capito? Sì, già ci sono quelli che la presenza se la prendono, certi maleducati che incontri. Ma è una questione di legge, non è questione di maleducazione, Gianfranco. Se uno, tu devi capire che un diabetico deve fare l'insulina a una certa ora, deve mangiare e fare l'insulina, quindi prima lo fa, prelevo e prima può fare l'insulina e mangiare. No, no, sto dicendo quello, sto dicendo altre persone che non hanno diritto. Quando vedono che qualcuno che ha la precedenza, fanno tante storie, dicono, sto facendo passare per prima. Vabbè, questa gente si dovrebbe tappare la bocca, o perlomeno accendere il cervello prima di dire certe cose, perché ovviamente non lo sa se è quello in gravi condizioni, se c'è patologie urgenti o cose di questo genere. Ma a me è capitato che c'era un tipo ha dato un'escandescenza, state facendo fare prima, quelli a piegarle, ma guarda che quello lì c'ha l'urgenza, è prenotato con urgenza, ma no, sono fatto e cose di questo genere, capito? E poi sono intervenuto alle guardie e hanno detto cosa. Perché la gente ignorante c'è sempre, non riesce a capire le cose. Io infatti evito, no, cerco sempre di abbordare, di andare per primo, di modo che me lo facciano subito, come io faccio il prelievo, vado al bar che c'è vicino, faccio colazione, mi faccio l'insulina in bagno, e sono a posto, mi porto l'insulina presso, me la faccio in bagno, così almeno sono a posto. Mi mangio anche due paste. E l'unica cosa da fare è portarsi l'insulina presso. Te la fai in bagno, entri in bagno e dopo fai colazione al bar. Ma vado a quello di Viale Umberto, mi hanno fatto pagare già due volte, sono andato ed era così, una truffa. Io non so se, come mai glielo permettono a questo qui. Uno, se c'è l'esenzione, deve essere esente e basta. No, che vieni so 5, vieni buona se pur zento. Se uno c'ha l'esenzione deve usufruirne, non lo so io qui. E anche la finanza chiamavo lui, Gesù Cristo mio, tanto già siamo messi bene. E continuiamo a farli fare quello che vogliono allora. E niente, comunque Natali, devi sapere che in Viale Umberto c'è una parte dove ci sono i prenotati e invece scendendo le scalinate a fianco ci sono quelli non prenotati. Cioè se sei prenotato passi prima, se non sei prenotato devi fare la fila quando ti fanno passare loro, capito? Io ho capito. Io quando sono andato una volta lì in Via Lamberto, sono sceso giù tranquillo, ho fatto la fila, sono entrato e tutto a posto. Ma chissà come è te. Ma adesso ha cambiato con la telecoronavirus. Vediamo un po' cosa vuoi dire. Prima c'era quello del bar, che quando apriva il bar metteva la macchinetta dei bigliettini fuori dal portone. Tu andavi, come arrivavi ti prendevi il bigliettino, adesso non è più così. Ci sono le prenotazioni che passano dal portone. Invece quelli non prenotati scendono la gradinata e c'è la prima porta che trovi sulla destra e quella lì è, c'è anche scritto non prenotato. Ma per fare la prenotazione lì cosa si deve fare? Questo non lo so, penso che basti telefonare e prenotare al telefono. Sì, allora, guarda, ho controllato adesso, per quello che riguarda ad esempio l'azienda ospedaliera, la U, puoi fare la prenotazione via email, le fai un allegato e ti danno subito il giorno e l'ora in cui devi andare. E lì si chiude, sono abbastanza precisi, devo dire, perché ripeto che lo faccio per mia sorella che anche lei è diabetica. E molti esami li fanno solo lì tra l'altro. Poi il laboratorio d'analisi. analisi puoi telefonare anche al numero, adesso ci sono i nuovi numeri che li hanno cambiati allo 079 26 44 560, giusti dalle 11 alle 14, e ti danno la prenotazione. E lui dice tranquillo, a quell'ora vai, e c'è la guardia, non so se ci sia ancora la guardia, la vigilanza fuori, Gian Umberto, glielo dice, devo fare questo, quest'altro, sono prenotato, cioè la prenotazione, e lui dice, tanto lui c'ha i nomi e non si scappa. E questo è il problema. Il problema è che molte cose la gente non si informa perché è abituata alle file, eccetera. Poi quando vede la gente che passa avanti si incazza pure, però magari quella gente ha prenotato. Quindi è bene sapere che sia l'azienda ospedaliera a fare le prenotazioni, per le analisi, funziona da quello che ho visto, perché io chiedo sempre a mia sorella se va tutto bene, e va tutto bene, sono abbastanza precisi e puntuali. E sia anche il laboratorio d'analisi di Sassari, ci sono andato anch'io, e non ci sono particolari problemi, l'importante è rispettare gli orari, quello sì. Riprendi Anthony. Che piano è il laboratorio di analisi del Palazzo Rosa? Vado lì e basta. Solo che il problema è il parcheggio lì. Guarda, c'è il posteggio a pagamento delle cliniche. La metti lì e sei vicino, sempre che l'orario non sia un po' di quelli disgraziati in cui non c'è posto. E purtroppo a Sassari dappertutto c'è, guarda via Lomberto, cos'è? Io vado al posto della noce, la metto lì, salgo le gradinate, poi scendo giù e sono Gappurri. Ma è una questione di orari, già. Beh, io vado alle 7:30 perché aprono alle 8:30, vabbè, vai alle 7:30, scivolo dei primi e poi come apro te lo fanno sicuro, capito? Trovo il parcheggio e tutto a quell'ora lì, perché ancora i militari non sono arrivati, se no parcheggiano tutti i militari che vanno a Castello, nella casa di Piazza Castello, e vedo sempre i militari che salgono le gradinate, perché sicuramente la parcheggiano prima. Capito Natalia, ho già devi aver urtato qualcosa che si è trovato ecco. Capito Natalia, fai la prenotazione, soprattutto voi che diciamo siete un po' impediti a fare certe cose, fa la prenotazione, se ne stai tranquillo, a quell'ora è sistemato, aspetti 15, anche 20 minuti, però sei tranquillo perché non devi litigare con nessuno. Bobo. Se no già, gliela facciamo noi l'analisi del sangue, io già ce l'ho il trappano, tu porta uno di quelli studi alla Fandini per il prelievo. Mi ricade già Franco in realtà. È una batteria 18 volti, io. Prendo il Black & Decker con la percussione. Sì, pure la percussione, cancellatore, tutto fatto. No, io ho fatto un affare, l'ho preso la Libre, avvitatore, anzi, me l'ha preso Tonino perché sono andato a comprarlo, mi ha detto che c'era e me l'ho fatto comprare anch'io. E niente, poi l'ho pagato naturalmente, ma è un avvitatore veramente veloce, forte, ti fa i buchi, tranquillo, fa tutto, è bellissimo come avvitatore, funziona bene, la batteria dura tantissimo, non l'ho ancora caricata, figurati, da quando l'ho comprato. Io me l'ho preso come quello di Franco, me l'ho preso da lì com'è. È bellissima questa batteria, solo che c'ha il difetto, c'ha una batteria solo. Sì, anche mio ne ha una solo, ma è grande però la batteria. I trapani costano poco, sono le batterie che costano. Infatti, poi bisogna si ritrova, E quello. Una volta che finisco lo direbbe un po', perché quello che ho preso io non è di marca, non è di marca, è un trapano tedesco, mai sentito. Però va benissimo, ti sto dicendo che fa sia la luce, quando tu trappani si accende la luce per farti vedere dove stai lavorando, e poi fa avvita bene e fa anche dei bei buchi, tranquillo. E anche il mio c'ha la luce, è bellissimo, come quello che c'ha Franco. Quelli di Lido lo ho anch'io uno, ho da anni tra l'altro, la batteria, piccolino, quella marca, quella verde, Packard, com'era? Packard Bell, una cosa del genere. Packside. Packside. Lasciano quelli lì, quelli verdi. sono tedeschi, fatti in Germania, credo. Sì, sì, sono tedeschi, quello lo so. Però io ho notato che queste attrezzature che vende la Lidl sono tutte buone. Io, come diverse cose, vanno tutte bene. Poi, se ti tieni lo scontrino, hanno la garanzia europea, quindi anche dopo un anno, adesso non ricordo se un anno o due anni. Adesso c'è il telefono, l'ho comprato a Natale, il telefonino, un telefono che costa 370 euro, e mi cadeva la linea sempre, mi cadeva la linea o mi sentivano robotizzato, pensando che fosse l'operatore, ho cambiato operatore, la mantessa in gossa. Allora gliel'ho portato da Media World e mi hanno detto che c'ha due mesi di tempo per aggiustarlo. E dove sta due mesi senza telefono, allora me ne sono fatto dare uno da Marco, un altro lì, che gli si era rotto il vetro e me lo sono fatto aggiustare da Luca, adesso me lo sta facendo, domani me lo dà. Sì, infatti. Io ho sempre quello, va benissimo, come telefono. Io già ne ho comprato uno che è molto bello, per adesso sta funzionando veramente benissimo, l'ho pagato pochissimo, c'è uno schermo grande, però c'è un problema un po' insolito, siccome è a standard militare, quando sono in tuta lo metto in tasca, ma me ne scendo i pantaloni. No, il mio è il Redmi 9, però non so se lo conosci, Natalia, da 60. È uno dei migliori che c'è in commercio adesso. Ma io non prendo quelli buoni, ho preso questo, ho preso Stuislo all'Asus, al coso, al, non mi viene il nome, l'Asus, come diavolo si chiama, vabbè, comunque è un Asus che non avevamo consigliato, che va bene, è andato sempre benissimo, è ancora funzionante, però lo schermo, sai, è un po' piccolo, come man mano che diventi anziano c'è bisogno di cose un po' più grandi da vedere, e quindi ho preso questo telefono che mi può servire anche come arma in propria, perché pesa un quintale, perché è corazzato, quei telefoni da lavoro, non so se ci hai presenti, che sono, dice che si può immergere fino a un metro sott'acqua, anche fare fotografie, e ho visto che è molto potente, su internet è una bomba, c'è una batteria che dura credo 4 giorni, una cosa del genere, tutto batteria, il giorno che esplode me ne butta giù da casa. Che telefono è, Gianfra, te lo ricordi? Che marca è? Guarda, tu devi, il nome dice già tutto, devi andare, che ne so, vai su Google e metti questa marca Bisont, credo che sia, vediamo un po', Bisont telefono. Allucinante, no, non avevo mai sentito, il mio dura 2 giorni, già dura tanto il mio, dura 2 giorni e poi io lo carico, anche se ha un po' di carica, al 15% dopo 2 giorni, però dura, e io lo uso molto su internet, lo uso molto, smanetto forte e cose, però 2 giorni mi dura. Io ho l'A20 della Samsung. No, io ho quello della Samsung, ho quello di servizio, ma è un bidone, non so se sia l'A3 o cosa è. Redmi 10 Pro, no, che ce l'ha Marco, stavo sbagliando, mio figlio, io ce l'ho 10. C'ha 3 telecamere, insomma, un sacco di pixel la telecamera, fa delle fotografie che sono allucinanti, anche dei filmati bellissimi. Sembra una macchina fotografica. Sì, il mio, adesso sto guardando i prezzi, non so quale sia. Cioè da 169, da 189, no? Non mi ricordo il modello, ma sono tutti corazzati, dicono tutti ottimo, eccellente, l'unico difetto è questo del peso, che te ne butta giù i pantaloni. E io lo tengo nel borsello, non ho quel problema. Oh, ma c'ha 8 giga di spazio, anzi no, 8 giga di memoria più 128 giga di coso, cioè un proprio, è grosso, quando a riempirlo di foto eccetera ce ne vogliono. È proprio di quelli mastodontici, di quelli super corazzati. Sì, dietro è tutto scritto, certificato 1000, click track, c'è 4 anche il pulsante PTT per l'utilizzo come radio. Ah, perché così sicuramente è una cosa militare. Ma come norme sì, però mi sembra un po' pesantuccio per essere militare. No, uno che volevo prendere era quello che c'è anche l'antenna, è particolare della sera, però quando ho guardato il prezzo ci ho rinunciato, ed è un cellulare lo stesso, e in più fa da ponte tra telefono e radio, ovviamente digitale, il modello base credo che venga a 1200 euro. E già c'è adesso l'itudine fuori, dai, pigliatelo se ti piace. Come, ci nuoto, ogni giorno nuoto, tipo papillon del papperino, ci nuoto. Una cosa che ne hai il doppio di metro di su. Sarà. Sì, adesso magari può darsi. Se vedi i nostri stipendi sono da fame, ma non da fame, ma proprio da fame. Ti dico solo che noi siamo senza contratto da... ho perduto il conto, guarda. Ho perduto il conto, credo che siamo 3 anni. No, a noi ce l'avevano rinnovato il contratto, ci davano anche di più. Ma dopo tanti anni ce l'hanno rinnovato. Guarda, ti dico che ne sto parlando ieri con il collega che è responsabile, quindi è un livello responsabile dell'ufficio, e arriva a malapena a 1500 euro. Ho detto tutto. Un lavoro per cui è già richiesto la laurea quasi. Quindi pensate. Non è tantissimo, ma non è nemmeno poco, là. C'è gente che prende meno. Ah, io sono arrivato fino a 1800, poi mi sono fermato, poi mi hanno tolto assegni familiari e ha cominciato a calare. Ma lui ha compreso l'assegno familiari, mi capito, un altro normale, sempre di livello tecnico specializzato, è sui 1300, quindi mi hanno detto un corrispondente in Germania prende tranquillamente 2000 euro di stipendio. Sì, qua sono stipendi, non sono tanto alti come stipendi. Vabbè, è sempre meglio 1500 che prenderne 1000 o 1200, come certi che lavorano, se fanno in Roma, per 1200 euro. C'erano gli autisti che venivano da noi con quei camion grossi, prendevano 1200 euro, facevano orari esorbitanti, chilometri e chilometri per portare la merce, per 1200 euro, aiuto. No, andiamo a pucciare l'articolato, ma per 1200 euro. Sì, vabbè, quelli sono anche sfruttati, però perché a contratto in continente prendono molto di più. Sì, c'era Luciano, che era anche CB, Luciano Conti, se tu lo vedi è distrutto, poveraccio, quello pigliava un sacco di soldi, che era altro trenista, anche quello, in continente lavorava per oggi. Cosa c'ha? La studiosi musica, Luciano? No. Se lo vedi c'è anche la macchinetta per poter camminare, quella macchinetta elettrica lì che sta sempre al Moccado lì, quella era CB pure. E già lo conoscevo, già me lo ricordo, l'ho visto a Porto Torres per un po' di tempo, poi non l'ho più visto. Non abitava lì? E lì abitava, perché io lo vedevo lì a Porto Torres ed era tranquillo quando lo vedevo lì, non era essere a rotelle o roba del genere. Adesso è che magari ha peggiorato. Sì, gli hanno tolto anche la patente per colpa delle medicine che prende, che danno sonnolenza, e quindi non può guidare, è invalido al 100%. La vita, vedi com'è, lavori con la vita, lavori grazie, quando tocca le pensioni non te la godi nemmeno. E infatti manca, lui non può prendere neanche quelli 50 che ci vuole il patentino, e non glielo danno mai a lui per colpa di queste pastiglie per il dolore che piglia, capito? Ma Tori, ma il Caravini ancora ce l'ha il camion di scorta? Sì che ce l'ho. Io ho venduto tutto, non ce l'ho più. Ho un'altra cosa adesso, c'è due pappagalli parlanti. Sì, cavolo. Vai e cercali, si chiamano Luiri Arcobaleno. Ma Già, via. Lo schermo di quello che ti dicevo prima è da 6.3 pollici, c'ha tutto praticamente, frequenze fino all'LTE, memoria RAM 6 giga, dual SIM ovviamente, Android 10, e poi cosa c'ha? La batteria è da 5 ampere addirittura, già lo credo che dura, che pesa. Fotocamera 48 pixel, poi ne ho una da 16, una da 5, un'altra da 5 e una da 24, e poi c'è anche l'NFC, memorizzazione è 128 giga addirittura. Se ti dico il prezzo, attualmente viene 170 euro. Non costa nemmeno molto, No, non costa molto questo, poi magari sto anche per meno. Le recensioni lo danno come buono, io ci lavoro un anno e fino adesso si è comportato bene, poi quando si faccia c'è un metalgetto, c'è poco da fare, non sto certo a starci appresso. È la comunità dei telefoni economici, l'attacco è quello moderno, come si chiama, USB 3, quello mini USB 3 credo, quella dual fire che la metti in tutti e due i versi. Sì, ho capito, l'ultimo che hanno fatto l'attacco, sì, ho capito. Sì, costa poco e funge bene, se dura già va bene. L'attacco sì è quello, come quello che ho io. Io ho l'A20 della Samsung e va benissimo. E poi se qualcuno ti aggredisce, gli otti in testa, l'ammazzi, quindi è anche un'arma. Ma stai dicendo a vederli, pappagalli? No, mamma mia, non è Puglia, guarda, se vedi come sono seduto e c'ho la testa appoggiata alle braccia, perché sono qua, così non me la sento. Se vedi come sto modulando, si sta bene. E anche io sono con questa scanchetta strana in questo periodo. Infatti però sto prendendo questi integratori e mi sto sentendo meglio. Dopo un po' mi sento meglio. Però stamattina mi sono alzato con questo capogiro, vado a alzarmi dal letto che non riuscivo a stare in piedi. Capogiro allucinante. Prendevo l'equilibrio, te le mani. E non ti alzare di colpo, aspetta prima di alzarti un po'. Quando ti alzi. Sai tipo che scherzo vero. Già, ma tu sei giovane, no, rispetto a noi. Io ho 62 anni, quasi, a ottobre. E allora sei più o meno vicino alla classe nostra, dai. Io ho la stessa età di Natalino. Ma guarda, a ben sentire, a ben vedere ti dico che siamo tutti un po' così. Io anche ieri sera stavo male, avevo come una specie di capogiro, queste cose strane qua, però la pressione era regolare, tutto normale, va? Ci sono tanti di quei fattori da vedere, che siamo tutti un po' tutti così, che ci lamentiamo perché non sappiamo, la cosa brutta è che non sai neanche quello che c'hai, capito? Perché vabbè, tu c'hai il diabete e ancora ci sta, però avere anche dolori articolari forti, avere tutte queste cose, e anche io quello lì. Io mi sono comprato il Voltare in due, quando c'ho dolori me lo passo sopra e già me li allivia, e lo grido. Soprattutto anche dove mi sei gonfiato, ho dei dolori articolari che mi fanno un bel male, ma proprio un bel. A volte mi viene pure a rigridare da quanto sono forti. E quando è così prendo il Voltare, me lo passo e mi passo. A me non mi va di nulla. Voltare in due? Ehi, quello lì. Non ti fa nulla, beh sì, come le fa passare? Ma io prendo la cardiaspirina e non posso pigliare, so cosa posso pigliare, la tachipirina, che non mi va di nulla ugualmente. Ah. Siamo da rottamare, Natali. Esatto. E vabbè, finché dura, fa verdura, l'importante è andare avanti piano piano, dai, tanto il periodo del corso è oramai finito, quindi ce la prendiamo con calma e poi ragazzi come fa a finire. Purtroppo c'è gente che non ci arriva neanche alla nostra età, e ogni tanto sul giornale ce n'è qualcuno. Quindi, come diceva quello, preghiamoci la salute, anche se messa male, però bisogna andare avanti. Ma io sto sperando che con l'estate adesso i dolori si calino a casa, perché ci sono giorni che mi alzo dal letto e sembro il cucciarruccio. E io a volte, la mattina soprattutto, scricchiolo tutto, sembro un arco di finestre, quelle cerniere rugginose proprio. A volte anche le mani, eccetera, quando rimani fermo. Poi vado in bici e sto benissimo, guarda, non sento niente. Poi lo dice al medico, il medico non ci crede, vabbè, io che ci posso fare. Così è la situazione. Quello, ho fatto da poco la visita per l'idoneità e mi ha detto, si dai, alzi le gambe, ha detto, ma solo questo, alzi le gambe, le alzate. Ma mica ho messo male, mi ha detto, è la sua. Come mi ha detto, lì c'è l'artrosi, c'è la periartriti. Come mi sono mosso facendo, praticamente mi stava facendo le colopre, come mi sono mosso ha fatto trick track, trick track, che è giù, che so che fisce di le bucce dell'uomo. Adesso il 17 devo andare io a farlo l'eco color Doppler a Plattamona, il 19 devo andare a farmi la seconda dose del vaccino. No, io l'ho fatta da 14 lo scorso mese, la seconda dose, sono a posto. Non so se ti devono rilasciare qualche cosa, qualche documento, cioè io c'ho un foglio come li ho fatti, però mi sa che ci vuole un altro tipo patentino per fare un pass, dai. No, anche ieri l'hanno dato anche mia sorella, è dato un foglio in cui c'è scritto che ci sono i dati, sia anche del vaccino, c'è scritto che è vaccinata fino alla seconda dose, tutto a posto. Quando finisci ti fanno questa specie di foglio. Quindi a me me l'hanno fatto quel foglio lì. Adesso lo porto, quel foglio, perché devo fare la seconda dose, quindi non ci sarà bisogno di compilare tutte quelle cose che mi hanno fatto la prima dose, perché c'è già scritto che l'ho fatto e anche che vaccino ho fatto. A posto, per andare a Bologna, c'ho già il vaccino, sono a posto. Sì, vi siete sovrappopolati con Natalino. Ho detto che porto quel foglio che mi hanno rilasciato quando vado a fare il vaccino, penso che non mi debbano fare compilare torno a tutto l'ambaradà che ho fatto la prima volta. Quello ci vuole Natalino. E cosa? L'ambaradà, il foglio che mi hanno rilasciato gli do. Questo c'è da compilare o lo compileggio, cosa vuoi ti dico? Sì, lo fanno loro di nuovo, vabbè, me l'hanno fatto loro, hanno visto quello, hanno fatto il bacio a quello, hanno fatto l'altro, sì, vabbè, lo compilano loro dentro prima di farti il vaccino. Comunque dicevano che sui vaccini, adesso da quando hanno fatto i vaccini, visto come sta calando tutto. E anche sta calando tutto, sì, e poi anche perché sta per venire l'estate, quindi abbasseranno i contagi, col freddo ritornerà questo cavolo di virus. E speriamo di no, Lattari, speriamo di no, che adesso che sono tutti vaccinati, c'è sempre l'ignorante che non se lo fa, capito? Meglio per lui. Beh, e poi quelli diventeranno a rischio, cioè la situazione si capovolge, no? Chi non ha difese, se lo prende, vabbè, forse avrà la rianimazione libera, ma stiamo a vedere. Che ci sia, non c'è un po' di dubbio, questa cosa rimane perché potrebbe diventare endemico alla fine. Il problema sono gli altri paesi che non riescono a vaccinare, perché già lo sai che te ne arrivano poi e quindi sono sempre dei focolai viaggianti. E una cosa un po' triste sta cosa. Comunque, vabbè, era destino che passavamo anche tra queste penitenze. La madre terra si sta ribellando. Eh beh, non c'è solo la pandemia, no? Se ti guardi gli ultimi risultati in termini di inquinamenti, di scioglimento dei ghiacci, non c'è solo che mettersi la mano in testa di quello che ci aspetta. Tieni presente che quel delinquente che c'è in Brasile sta continuando allegramente a bruciare e a deforestare, il che chissà cosa ne tira fuori da...